Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, alle 10:09 minuti e 6 primi in diretta dagli studi di Un'Assolata a Milano. I compari dei conti della Belva in studio, qui con me a fianco. Caro Alberto Carnevale Maffè. E collegato con noi in Skype. Mario Seminerio, ci sei? Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, grazie a voi, poi ci raggiungerà anche Renato Cifarelli. Buon primo aprile innanzitutto a tutti coloro che sono in ascolto. Guardatevi dagli scherzacci, uno dei quali forse non è il migliore, quello che ci fa il Presidente degli Stati Uniti, che apre una guerra commerciale, quando le cose stavano andando evidentemente troppo bene. Ma ne parleremo di che cosa oggi, infatti, in puntata. Se volete chiamarci all'800 24 00 24, per dirci come la pensate, ci occupiamo oggi. Una prima parte è esattamente dedicata a questa novità energica, questa scossa che è al commercio mondiale dagli Stati Uniti con questi presidential orders che identificano prodotti paese su cui iniziare le schermaglie. Ma l'obiettivo è chiaro, l'obiettivo è quello di far capire, come ha detto ieri con un linguaggio bellico che mi ha molto colpito il segretario al commercio americano Ross, ha detto testualmente: è finita l'epoca in cui gli Stati Uniti si piegano al disavanzo commerciale. Stiamo parlando di una sfida ampia, visto che stiamo parlando di oltre centinaia e centinaia di miliardi di disavanzo commerciale americano. E ha aggiunto: d'ora in poi le nostre truppe alzeranno bastioni. Quando sento parlare di truppe, a proposito di economia e commercio, mi viene insomma un po' di terrore. Allora, vedremo con degli ospiti di approfondire meglio cosa si rischia, la storia cosa ci dice, una lezione univoca sui dazi, il come e il perché. Voi chiamateci per dirci se siete favorevoli, visto che non mancano anche italiani, leader politici, che si dicono favorevoli ai dazi. I dazi degli altri ci fanno bene perché ci svegliano. Perché così ci obbligano a metterli anche noi. Ecco. Una bella spirale. Allora, detto questo, non possiamo dimenticare però che alla questione dei dazi americani si aggiunge la ratificazione, la formalizzazione per così dire dell'articolo 50 del trattato, che all'inizio della settimana il Regno Unito, a 9 mesi di distanza dal referendum sulla Brexit, ha appunto formalizzato l'Unione Europea. E quindi comincia il gran ballo biennale, e in 4 giorni la certezza che si è raggiunta è che 2 anni non bastano, perché le materie sono tante e sono tali, sono così complesse, le aspettative britanniche sono così radicalmente irrealistiche rispetto a il modo e il contenuto di cosa bisognerà trattare, che anche sui giornali britannici, anche pezzi del mondo dell'economia e della finanza britannica iniziano a dire: guardate che bisogna cambiare atteggiamento, perché se no noi rischiamo molto più di quanto voi abbiate raccontato alla gente, e non è un bene per nessuno. Allora, ci occupiamo anche di questo, voi diteci come la pensate anche su questo argomento, se ritenete. Naturalmente iniziamo poi tra pochissimo con la rubrica di Mario sugli aggiornamenti questa settimana. America, anche lì Fed, crescita, inflazione, quindi aspettative sulle banche centrali, ma non solo quello. E poi avremo, come sempre, alle 11:30 il nostro amico Udo Gumpel, con cui parlare di un paio di cosette, l'incontro di Berlusconi con la Merkel, ma non solo. Allora, Mario, oltre a questo segnaliamo qualcos'altro? Ma non possiamo non segnalare l'esaltante sconfitta patriottica del PM della Procura di Trani, dottor Michele Ruggero, nel senso che Standard & Poor's, ma anche l'analista di Fitch, che era coinvolto a latere della vicenda, non hanno compiuto alcun reato. Oibò. Ecco, no, allora diciamola questa cosa, perché visto che ieri sul sito di Beppe Grillo è comparso questo struggente scritto del dottor Ruggero che come dire, ha enfatizzato il proprio sentimento di solitudine abbandonato dalle istituzioni perché non si sono costituite parte civile. Leggiamola tutta la notizia, diciamo, quindi il dottor Ruggero si è sentito negletto, e però il dottor Ruggero è felice perché ha un grande popolo alle spalle che lo aiuta, gli manifesta solidarietà per difendere la patria. Allora io vorrei dire solo una cosa, siccome questa vicenda bene o male l'ho seguita dall'inizio, all'interno dell'impianto accusatorio, una delle chiavi di volta dell'impianto accusatorio era che Standard & Poor's è controllata dalla casa editrice americana McGraw-Hill. All'interno della casa editrice americana McGraw-Hill, all'epoca in cui si svolsero i fatti incriminati, Morgan Stanley deteneva una partecipazione di poco inferiore al 3%. A seguito del, diciamo, l'andamento pessimo di spread e diciamo dei nostri conti, del nostro debito pubblico, come ricorderete, l'Italia fu costretta a pagare a Morgan Stanley 3,1 miliardi per la chiusura anticipata di alcuni derivati che avevano delle clausole ben precise. Ora, l'impianto accusatorio cosa postulava? Che poiché Morgan Stanley era al 3% nel capitale di McGraw-Hill che controlla Standard & Poor's, allora Morgan Stanley si può considerare il mandante di questa iniziativa. Ora, a prescindere dal fatto che Morgan Stanley aveva il 3% dentro McGraw-Hill, ma questo 3% era conto terzi, non conto proprio, cioè era relativo a fondi di investimento gestiti da Morgan Stanley nell'interesse dei propri sottoscrittori, al di là di tutto questo è altrettanto interessante notare che già in fase istruttoria la procura di Trani decise di archiviare il comportamento di Moody's. Moody's aveva compiuto le stesse pressoché identiche azioni sul rating sovrano italiano in quel periodo, però per la procura di Trani, come dire, non c'era, pur essendovi elementi che facessero sospettare manipolazione dei mercati, non vi era prova che tali elementi fossero consapevoli, mancando l'elemento soggettivo. Cioè mancava la prova che anche Moody's volesse destabilizzare intenzionalmente i mercati. Ora, che cosa dire di tutto questo? Andiamo avanti, stendiamo un velo pietoso. Queste sono le stesse teorie complottiste secondo le quali, quando Deutsche Bank vende 7 miliardi di BTP su oltre 2000 in 6 mesi, è al centro di un complotto per far capitolare il nostro paese. Allora io dico questo, in quanto contribuente italiano mi piacerebbe che il mio denaro venisse speso in una maniera un filo più smart anche dalla magistratura, perché questo è il punto. Dopodiché cerchiamo di resistere, perché quando avremo una moneta sovrana potremo stampare tutti i soldi che ci servono per finanziare anche l'attività inquirente di alcuni pubblici ministeri. Spero che colgano gli ascoltatori. Sì, dobbiamo mettere il cartello. No, perché io, diciamo, lo dico sempre, perché non si sa mai, esatto, coi tempi che corrono. Sì, sì, diciamo, bastava una cravatta tricolore e il problema era risolto, su un po' di gesti apotropaici. Posso invece dire io che cosa ho visto? Che questa settimana torno dal Veneto, ieri notte, e devo dire che quando ho illustrato il bilancio delle due ex popolari, cioè una ha perso 1,9 miliardi e l'altra 1,4 miliardi, e quando ho illustrato l'effetto che avremo di fronte alla richiesta di ricapitalizzazione precauzionale, che apre solo due strade, caro Oscar, io ho detto: signori, a questo punto o c'è il burden sharing oppure c'è il bail-in, tertium non datur. Allora io ho detto due cose in inglese e una in latino, devo dire le facce non sono state molto favorevoli, no? Mi hanno detto: no, qui lo sharing non c'è, come a Milano o da voi, abbiamo soltanto un po' di biciclette in comune. La verità è, caro Oscar, che qui il tema di queste due banche è molto molto molto grave, perché sia l'offerta, diciamo, transattiva, sia i requisiti di continuità aziendale sembrano non rispondere alle condizioni minime, quindi insomma devo dire sono parecchio preoccupato di quello che può succedere. Ma mi pare che i consigli che ieri a cui è stata data la relazione da parte degli amministratori delegati della serrata trattativa che è in corsa con la direzione generale della Commissione Europea, più che darti una risposta concreta, perché questi punti esistono, il punto concreto è: esiste davvero l'estremo dell'aumento del capitale per cauzionale secondo la BRD? Questo è il punto preciso, è un punto tecnico che abbiamo più volte spiegato, ma questo punto preciso esiste. Esiste a tal punto che se si guardavano con attenzione le dichiarazioni ieri fuori dai consigli, ed entrando nei consigli, quello che si coglieva era soprattutto la speranza e la fondata attesa, per così dire, nei toni rilevati negli incontri con la direzione generale della Commissione Europea per la concorrenza, che la stessa Commissione non sia alla ricerca di uno scontro più che tagliare il capello in quattro, che non è una cosa molto rassicurante secondo me, perché di solito abbiamo visto animare in Italia questa impressione quando si sa che non siamo molto in linea con le norme, e allora si dice no, ma vedrete che la Commissione, vedrete che con l'Europa, con tutti sti chiari di luna, la Brexit, Trump, eccetera. Allora, questo significa che non ci siamo precisamente nel reticolo delle condizioni della legge, questa è la mia impressione, temo soprattutto per una banca, su questo lo vedremo meglio l'8 aprile, perché è l'8 che si aspettano, certo, i conti di Veneto Banca, però la situazione è molto complicata, molto molto molto complicata, perché la richiesta di avere risorse per assorbire con noi cuscini di capitale tutte le possibili perdite, che vanno scontate tutte rigorosamente, certo, anche quelle prevedibili, ecco. quindi quelle di ristrutturazione, quelle che saranno il risultato di ulteriori accantonamenti a copertura delle possibili perdite da crediti deteriorati, caro, che stiamo parlando di miliardi, alla luce del fatto, anche come si è visto, il conto 2016 approvato pochi giorni fa non è che interrompa l'impressione che ci sia una pipeline, per così dire. E poi c'è il tema della liquidità, che è un tema importante, che può andare a maturità ancora prima, perché se la liquidità... quello va in maturità ancora prima, perché da quello che so le due missioni con la garanzia di Stato sono già state richieste di corsa, ed è una garanzia di emergenza assoluta da parte del, perché la liquidità non c'è, ecco, e malgrado si fosse già fatto ricorso a una a un'emissione garantita dallo Stato. Però, cari azionisti, noi vi seguiamo di settimana in settimana, caro vi è costato avere condizioni di favore per anni, e ho visto che Zingale si sottolinea, ma il Veneto è l'unica regione d'Italia in cui c'è ancora un tasso così negativo. Sì, la risposta la trova il professor Zingales nel libro che abbiamo presentato di Andrea Greco e Franco Benni di Repubblica, nel capitolo che però documenta come in Veneto quelle due banche in particolare abbiano garantito per anni e anni e anni a chi oggi sta zitto, perché se lo ricorda, impieghi con 150-200 punti base anche in meno rispetto al resto dell'Italia. Ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua, caro Mario. Allora, una settimana che era cominciata con segni di un tipo, poi finisce con segni di un altro tipo, perché era cominciato con una bella correzione al rialzo su PIL degli Stati Uniti, e quindi però con segnali molto confusi di che cosa dobbiamo aspettarci dalla Fed, e quindi non proprio chiari, e io sono dell'idea che la comunicazione della Fed dovrebbe essere molto molto molto più netta sugli aumenti che ci dobbiamo attendere. Che dici? Ma diciamo, vedo anch'io che continua questa robusta polifonia da parte del board della Fed, nel senso avremo altri due aumenti dei tassi, no tre, però va bene, però non è detto, eccetera, insomma sì, diciamo che è abbastanza una comunicazione piuttosto rumorosa. Cacofonica la definirei, più che polifonica, esatto, se posso. Esatto, assolutamente sì, però diciamo a questo punto è abbastanza evidente che dopo che il buon Trump si è rotto le corna, come direbbero a Bolzano, sulla riforma sanitaria, sulla controriforma sanitaria, è chiaro che adesso cercherà qualcosa di eclatante, passando sempre attraverso i suoi executive order, che sono quelli che gli permettono di fare la sceneggiata senza sottoporsi al giudizio delle Camere, segnatamente della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Quindi, tra l'altro, parliamone, ieri ha firmato Trump questi due executive order, no? Una commissione di studio della durata di 90 giorni per capire il perché del deficit commerciale americano e prendere delle misure conseguenti. Qui c'è da fare, come dire, una sorta di precisazione, no? Trump non sa letteralmente che pesci prendere, cioè dopo due mesi dall'insediamento è un uomo disperato. Queste cose bisogna dirle soprattutto a beneficio di tutti i suoi stranamente numerosi fan che ci sono in questo paese confuso da cui noi trasmettiamo, in cui noi viviamo. Perché dico questo? Quando il signor Obama riuscì a far passare la riforma sanitaria, impiegò oltre un anno di capitale politico e si trovò contro una robusta fetta del suo partito, i cosiddetti Blue Dogs Democrats, che erano i democratici conservatori fiscali. Siccome Trump non ha fatto assolutamente nulla del genere, si è trovato di fronte gli ultraconservatori fiscali del Freedom Caucus, che gli hanno detto tu da qua non passi, lui ci è rimasto di sasso, è riuscito a balbettare qualcosa del tipo non pensavo che la riforma sanitaria fosse un tema così complesso, ma welcome, diciamo, adesso vedrai con la riforma fiscale. E quindi che cosa può fare lui? Può buttarla in caciara, cioè cercare di capire, già, voglio dire, le stesse dichiarazioni del suo ministro del commercio estero Wilbur Ross, che non, ricordiamolo, è un miliardario ottantenne, no? Perché bisogna dirle tutte, all'interno di questo grandioso governo popolare che è degli Stati Uniti, che apre il cuore alla speranza delle masse diseredate, il ministro del commercio estero è un miliardario ottantenne che utilizza, come hai detto tu Oscar, queste metafore belliche che fanno sinceramente ridere. Però Mario, prendiamo atto che Trump si sta rendendo conto del prezzo della democrazia americana e del non avere dietro un partito e dell'essere un maverick in qualche maniera, cioè se lo sta rendendo conto, e secondo me, scusa se posso dire, i dazi saranno la prossima storia su cui lui si scontrerà col fatto che la democrazia americana è un po' più complessa delle sue semplificazioni, non lo pensi anche Dio tu? Dio benedica la democrazia americana con i suoi pesi e contrappesi, sicuramente. Tra l'altro, i dazi di cui noi, su cui noi italiani ci siamo esercitati questa settimana strappandoci i capelli per la Vespa, tra le altre cose, sono una cosa diversa, sono una cosa che era già stata avviata dalla precedente amministrazione, questo è bene dirlo, e sono nella categoria dei dazi punitivi, che sono contingentati, quantitativamente molto esigui. Diversa è l'ideuzza del signor Trump di fare un'azione sistematica, entrando in rotta di collisione con i cinesi, con i tedeschi, ma anche con la povera Italia che esporta molto negli Stati Uniti. Questo noi lo stiamo dicendo dalla notte dei tempi, cioè dall'insediamento di Trump. Quindi, ripeto, congiuntura mondiale che sta bene, sta molto bene, diciamo, almeno comparativamente rispetto alla storia degli ultimi anni, però c'è questo nuvolone, no, di Trump, della sua riforma fiscale e soprattutto, ripeto, del fatto che questo signore si troverà di fronte la resistenza poderosa del sistema produttivo americano, segnatamente di quello che esporta. Allora, avere contro questa gente, secondo me, non è il modo migliore per durare alla guida della prima potenza economica e militare del pianeta. Però staremo a vedere. Nel frattempo io volevo però, Oscar e Carlo Alberto, segnalarvi un'altra cosa che riguarda il cortile di casa. Cioè, si è tenuta l'assemblea degli azionisti della Banca d'Italia, che non ha più luogo, diciamo, in base alle nuove norme, alla nuova governance, al nuovo statuto, il 31 maggio con le considerazioni finali del governatore, che sono scisse, diciamo, adesso. Ma cosa c'è stato? Innanzitutto che la Banca d'Italia erogherà per l'esercizio 2016 alle casse del Tesoro ben 3,4 miliardi di euro. Di cui, strano, è una banca privata, non dovrebbe erogare tutti questi soldi. Di cui 2,1 miliardi di utile, diciamo, di quello che è un utile, come dire, di natura pubblicistica, e 1,3 miliardi di imposte. Per contro, ai cosiddetti azionisti, che sono, come noi sappiamo, a seguito della predicazione grillina e non solo, l'anima nera che controlla la Banca d'Italia e la rende privata, dovevano essere erogati poco più di 300 milioni di euro, però siccome esistono ancora azionisti privati che superano la quota del 3%, i dividendi in capo alla quota che supera il 3% finiranno a riserva e non saranno pagati. Ecco, allora, riflettiamo su questo punto. Oltre al fatto che i cosiddetti azionisti privati non mettono becco nelle scelte della Banca d'Italia, guardiamo sul piano della vile pecunia quanta è la differenza tra i fondi erogati al Tesoro e i fondi simbolici pagati sotto forma di dividendo agli azionisti privati. La Banca d'Italia sta diventando una public company molto sui generis, nel senso che le banche che avevano queste partecipazioni elevate al capitale stanno progressivamente cedendole per arrivare ad un massimo del 3%. Entrano casse professionali, fondi pensione, cioè operatori che hanno bisogno di un rendimento al proprio investimento azionario. Ora, come si possa, alla luce di queste evidenze palmari, continuare a dire che la Banca d'Italia è controllata da entità private senza essere presi a pesci in faccia o da una sonora risata, è una cosa che fa parte dei misteri di questo ridicolo paese, popolato da demagoghi che si riproducono per partenogenesi su base quotidiana. Dopodiché diamo il premio a Matteo Salvini, che ha detto che Trump, come accennavate voi, fa bene a mettere i dazi perché dimostra che fa l'interesse del proprio paese. Quindi c'è una sorta di invidia penis per i dazi di Trump. Speriamo di metterli rapidamente anche noi e speriamo, come dico sempre... No, come sarebbe a dire? Guardate, guardate che voi due state esagerando, perché la gente non capisce che siete ironici. Dai, forza. Diciamo, e questa Unione Europea impongano dazi elevatissimi a tutte le produzioni estere, in maniera tale che la realtà finalmente prenderà il comando delle operazioni e ci prenderà a calci in culo, andando a prendere per primi quelli prestigiosi accademici, veri o presunti tali, che ci segnalano come fare ad uscire dai problemi da anni, perché loro avevano già visto la soluzione. Quindi forza realtà, io sono del partito della realtà, l'asteroide si affermerà e faccia una strage. Torniamo tra un minuto! Conti della Belva. Sfumate, sfumate, perché qui non ci hanno ancora, non siamo ancora diventati la stella aggiuntiva sulla bandiera, caro Alberto. Potremmo aggiungerne 5 magari invece che una sola, che dici? 5 in che senso? 55 stelle. Ah, 55 stelle. Sentite, cari ascoltatori, allora, io spero che sia risultato chiaro da quello che ha detto Mario, che siamo molto critici sui rischi enormi che si corrono dimenticando una lezione della storia. La lezione della storia è molto chiara ed è univoca. Nella storia chi ha ritenuto che erigere dazi e scatenare guerre commerciali sia tutela delle proprie occupazioni e delle proprie specializzazioni ha dovuto sempre fare i conti con il fatto che si apre una spirale per cui si applicano da parte di altri le stesse armi che tu applichi. Allora, esatto. L'effetto sicuro è la povertà, l'effetto probabile è la guerra. Diminuisce il commercio mondiale, c'è cioè meno crescita e meno occupati per tutti, diminuisce il potere d'acquisto dei tuoi consumatori che tu stai allisciando dicendo che lo fai per loro, perché sia i tuoi prodotti che diventano tra virgolette sussidiati e protetti avranno andamenti di prezzo più elevati e naturalmente chi vorrà essere libero di comprare cosa comportata la pagherà a quel punto, follie. E la guerra nasce da questo, quindi questo è quello che è sempre avvenuto, quindi chi in Italia si dice felice è libero di suicidarsi, questo ovvio. Per chi ha un'etica, perché poi ci sono anche i cattolici per cui dicono non è libero comunque, nel qual caso mi aspetto che i cattolici facciano delle azioni per impedire il suicidio politico da parte dei leader politici italiani che dicono viva i dazi. Ma detto tutto questo, tentiamo di capire da degli osservatori che si occupano professionalmente di rapporti finanziari, di impresa, eccetera, eccetera, tra Italia e Stati Uniti, per aiutarci a capire meglio i contorni, il rischio reale, quanto è recita politica, che nella comunicazione pubblica, non solo agli Stati Uniti di Trump, ma con Brexit, se andiamo all'Europa, ogni paese europeo ha molto pestato sul piede degli aspetti più forti e demagogici della comunicazione politica, la nuova cifra di questi anni. E allora cerchiamo di capire da loro cosa bisogna distinguere dall'atteggiamento di enfasi, da quello concreto, cosa possiamo immaginare di quello che il Congresso o comunque la squadra intorno al presidente possono davvero nel tempo indurlo alla riflessione, o se invece è una svolta tale da ripercuotersi con rimbalzi su tutto il mondo. Io vi ricordo che il 6 aprile è previsto un incontro con Xi Jinping del presidente Trump. Le premesse sono quelle di un incontro, per così dire, di una certa delicatezza. Allora, abbiamo con noi, per aiutarci a capire meglio, il Managing Director dell'American Chamber of Commerce, Simone Crolla. Grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. E Fernando Napolitano, che è Presidente e Amministratore Delegato di Italian Business Investment Initiative New York. Buongiorno Fernando. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Posso chiedere prima a Napolitano, che conosco da anni, innanzitutto la sua impressione personale di quale sia lo sviluppo e la ragione di questo scrollone così diretto anche immediatamente all'Europa e in quella lista di paesi anche all'Italia. Te lo aspettavi? Ma guarda, quello che sta succedendo negli Stati Uniti è la risposta a un malessere profondo. Non molto tempo fa, a settembre, ero in una di queste riunioni a New York a porte chiuse con un alto rappresentante della Casa Bianca, e lui diceva agli astanti, quindi tutta gente ovviamente coinvolta in finanza, industria, eccetera, quindi diciamo la parte alta della catena reddituale, dice: guardate, voi avete fatto un errore straordinario, perché dire alla gente che la globalizzazione è bella quando non riescono più a perseguire il sogno americano, quindi tradire le aspettative, è qualcosa che sarà un errore che pagheremo caro. Questo accadeva a settembre, quindi lungi da lì dire la vittoria di Trump, che è stata una sorpresa per tutti, però è ovvio che le coste degli Stati Uniti hanno sviluppato negli ultimi 20 anni una specie di dottrina. E chiunque contro questa dottrina, che viene riassunta nel politically correct, è un blasfemo. E non c'è dubbio che la stampa in generale si sta accanendo contro Trump in maniera probabilmente senza precedenti. Dall'altra parte, ovviamente, anche i più attenti osservatori hanno difficoltà nel capire effettivamente questo cosa pensi, questo nuovo presidente. E quindi tutte le azioni che lui sta facendo sono azioni che, da una parte, la borsa short-termista sta premiando, dall'altra cominciano ad esserci problemi, perché come hai visto Obamacare il piazzo di Obamacare non è successo, il discorso delle tasse, che farò delle tasse bellissime, l'ultima volta è stato nel 1986 ed è complesso, non è così semplice, quindi ci saranno un po' di, dopo 70 giorni, un po' di checkpoint che diranno un po' la verità. Per quanto riguarda questa battaglia commerciale, francamente tutti, in particolare quelli con cui parlo, sono tutti perplessi, perché ricordiamoci che l'Europa in generale è uno, se non il primo datore di lavoro negli Stati Uniti. Quindi avere questo tipo di azioni credo che sia qualcosa che comincerà ad avere effetti pesanti anche sull'occupazione americana, opposto al di là ovviamente tutte le teorie che giustamente tu dicevi, e la pratica e la lezione della storia. Quindi quello che sta succedendo negli Stati Uniti lascia tutti i grandi osservatori molto perplessi e preoccupati. io diciamo ho una buona speranza nel ministro degli affari esteri, il segretario di Stato Tillerson, proprio perché è una persona che queste cose le conosce a memoria per sua esperienza e per sua ovviamente convinzione. È molto silente in questo periodo, come visto è andato in parti importanti, tra cui anche ovviamente Bruxelles, quindi Europa, e quindi io credo che lì possa venire a un certo punto un po' di saggezza, perché diciamo Trump si trova psicologicamente per la prima volta nella sua vita di fronte a veri oppositori. Ricordiamoci che lui è stato non solo diciamo un tycoon dell'immobiliare, ma lui era anche il padrone, padrone di questa azienda, quindi lui non è abituato e si trova di fronte a un partito repubblicano di stampo europeo, quindi con diverse fazioni, diciamo, non ci sono democratici e repubblicani. I repubblicani hanno affondato quello che Paul Ryan aveva fatto, un po' per dare una botta a Paul Ryan, dall'altro perché dicevano che era troppo leggera la manovra, quindi non è che volevano difendere Obama, che volevano andare oltre. Quindi Trump si trova in una difficoltà significativa e il midterm è dietro l'angolo, perché insomma lui adesso sta spendendo questi 70 giorni, imparerà e tra poco si andrà in campagna elettorale. Si andrà in campagna elettorale e tra l'altro l'inizio della sua campagna elettorale, mi rifaccio a quello che ricordava Mario prima, nella geografia interna del partito, è un invito esplicito e preciso a fare secchi i candidati del Freedom Caucus, che sono i suoi oppositori, nel Partito Repubblicano. Quindi, voglio dire, non proprio una dimostrazione da parte del presidente Trump di grande forza per tentare di estendere la presenza del suo partito, ma bensì lotta interna contro i suoi oppositori e chi obietta a lui nello stesso Partito Repubblicano, come ci diceva appunto adesso Fernando Napolitano. Quindi... Scusa, aggiungerei un altro pezzo, Oscar, che è molto importante. Ricordati che Clinton, il primo Clinton, ha avuto un grande successo perché lui è stato capace di fare il compromesso across the aisle, come dicono in America, quindi con la parte opposta, con i repubblicani, cosa che è mancata per certi aspetti allo stesso Obama, che ha continuato il muro contro muro. Quindi diciamo il blocco di Washington, che a breve, se non rinnovano la possibilità di alzare il deficit, vedrà la chiusura del governo, perché siamo a fine aprile, qui è dove lui avrà il più grande test, quindi la capacità di fare compromessi con il suo partito e con il Partito Democratico. Che ci dice Simone Crolla invece dal vostro osservatorio dell'American Chamber of Commerce? Tentiamo di capire meglio, prima che partano i contrappesi, che cosa davvero si può determinare però nel flusso e nell'importanza del nostro commercio negli Stati Uniti. Intanto sono d'accordo assolutamente con voi, con Fernando, sicuramente c'è molta precisione, c'è poca chiarezza insomma su quelle che saranno le mosse future di Trump, soprattutto sul commercio. Ricordiamo che non ha ancora potuto nominare il suo trade representative, lo USTR, che è poi quello che va, come dire, a negoziare su questi ipotetici dazi sulle varie merci dai paesi dell'Unione Europea. Nel mentre lui ieri ha firmato un executive order che non prevede quello di cui parla la stampa in questi giorni, cioè non c'è nessun annuncio, come dire, di porre dazi su merci importate, né tantomeno su specifici marchi come l'acqua San Pellegrino, la Vespa o il Roquefort. Quelle sono liste che sono gestite da, indipendentemente, diciamo, dallo USTR sin dal 1999, quindi e naturalmente non si riferiscono a nessun marchio nello specifico. Lui ieri ha firmato... Se diciamo che lì per una volta bisogna dire cosa come stanno. Per una volta il Wall Street Journal non ha reso un grande servizio all'informazione mondiale, soprattutto perché è il Wall Street Journal che attraverso una sua indiscrezione ha fatto partire le agenzie italiane, poi i giornali italiani. È esatto. Diventato in 5 secondi, quando tu spiegavi al direttore che ti chiedeva l'editoriale, ma guardate che no, è un dazio, l'informazione poi è chi la spara più grossa, bisogna dire che è grossa. Scusi. No, ma ha ragione, diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso diamo a Trump quel che è di Trump. Lui era firmato un executive order molto importante in base al quale si fa il punto su quello che sono, diciamo, l'enforcement, quindi tutte le previsioni contro l'antidumping, e si danno 90 giorni ai vari dipartimenti americani per fare sì che questa analisi sull'antidumping sia fatta in maniera seria e accurata, perché pare che dalla riscossione, diciamo, delle multe contro il dumping all'erario americano, ma anche in diversi billion. Quindi sta facendo una cosa che non c'entra niente rispetto ai dati, una cosa che anche è sensata e che naturalmente va anche guarda anche alla Cina, che, come hai detto tu, riceverà tra poco a Mar-a-Lago, perché nel mondo dell'acciaio le esportazioni sussidiate cinesi sicuramente hanno creato dei problemi in America. Quindi, da questo no, punto poi di voglio vista... ricordare ai nostri ascoltatori che da questo punto di vista anche l'Unione Europea per prima sulla concessione della clausola di mercato alla Cina non è che noi stiamo parlando di paesi più liberali al mondo, questo, ricordiamocelo, che anche noi proprio sull'acciaio, perché è sull'acciaio che c'è la maggior parte della per il momento dei dazi aggiuntivi europei proprio poi, su quel settore, e subito dopo sull'agricoltura. Cultura, fammi dire, no? Che poi è il tema del dibattimento questo in questo momento. No? E volevo chiedere però a Simone, proprio siccome stiamo parlando in realtà di commodities e invece il vero tema dello scambio commerciale Italia-USA, scusate, negli ultimi anni si è spostato notevolmente per fortuna di quota di valore aggiunto, vorrei che rassicurasse Simone sul fatto che invece sul resto le cose stanno andando invece abbastanza bene. La risposta tra un minuto, prima traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, tornati in diretta. In altre parole, noi speriamo di avervi spiegato, cari ascoltatori, che un conto è verificare se ci sono paesi, settori che sono pesantemente sussidiati dallo Stato, e allora quello è un problema per il quale ci vuole un commercio equo. Esistono le autorità come l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Altro conto è prendere alla lettera le parole del tantenne segretario al commercio Ross americano, che dice è finita l'epoca in cui noi possiamo accettare in ginocchio, testualmente ha detto, lo sbilancio commerciale americano. D'ora in poi le nostre truppe erigeranno bastioni. Allora, quello diventa aprire una guerra di ritorsione, a prescindere dall'esame di sussidi, prezzi non trasparenti, eccetera, eccetera. Allora, Simone Crolla, Managing Director dell'American Chamber of Commerce, che cosa rispondiamo a Carlo Alberto? Ma allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'Italia, la nostra bilancia commerciale è ampiamente positiva, cioè noi abbiamo un surplus commerciale di oltre 30 miliardi di dollari. Negli ultimi 15 anni le esportazioni italiane verso l'America sono cresciute del 75%, e questo da un punto di vista di esportazione, da un punto di vista di investimenti. È il primo paese di sbocco, tranne il commercio intraeuropeo con Germania e Francia, sono gli Stati Uniti. Assolutamente, siamo il decimo comunque investitore esportatore negli Stati Uniti, abbiamo una bilancia commerciale positiva, le nostre merci sono ampiamente apprezzate, anche per quanto riguarda gli FDI, quindi gli investimenti quelli veri e propri, industriali eccetera, l'Italia sta andando bene, c'è stata una crescita recente nell'ultimo 2015 su 14 del 70%, per quanto riguarda il flusso, quindi gli investimenti anno su anno, operazioni che si fanno tra M&A e Greenfield, anche qua stiamo messi bene. L'Italia insomma continua a investire un po' meno dei partner più importanti europei rispetto a noi, cosa che non va bene sono gli investimenti americani nel nostro paese. Insomma, ecco, qua c'è stata una diminuzione soprattutto nello stock, nel valore degli investimenti americani in Italia, che ha toccato punte importanti. L'anno scorso un meno 80%, in questo caso per il flusso di investimenti americani nel nostro paese. Quindi dovremmo invece dei segmenti merceologici? Dove si sta spostando il mix del commercio tra noi e gli Stati Uniti? Ma guarda, l'Italia è sempre forte con le sue famose tre S, no? Il food, il fashion, il furniture, questo rappresenta quello che ci rende famosi, anche le principali voci del commercio. Però poi c'è tutto il mondo, quello che noi chiamiamo della quarta F, che adesso che è un FCA, come quindi tutto il mondo automotive, tutto il mondo del machinery, che è importantissimo. Lì c'è il vero valore aggiunto degli investimenti italiani. La nostra riconosciuta competenza nella meccanica, nella robotica, nel packaging, in tutto ciò che è macchinari. Questo è un dato molto importante che è molto apprezzato dagli Stati Uniti, che vengono anche in Italia in quelle ormai più selettive operazioni di M&A ad acquisire quelle aziende italiane che hanno una tecnologia. Quindi anche diciamo che non è solo export, è in realtà sono global value chain, quindi sono scambi sistematici e interdipendenti fra aziende italiane e aziende americane, e guarda caso Fiat sta proprio usando questo metodo in maniera sistematica, portando tecnologia al di qua e al di là dell'Atlantico in maniera proprio progettuale. Me lo confermi questo? Assolutamente sì, ci sono continue operazioni, ma anche aziende americane che portano in Italia il loro R&D mondiale, e questo è importante perché denota comunque sia la nostra capacità, come dire, di produrre anche una forza lavoro altamente qualificata con le skill che loro vogliono, in grado poi di influenzare e di contaminare anche le produzioni americane. Quindi vogliamo dire che c'è un'agenda tecnologica e industriale per fortuna un po' più ampia di questa scaramuccia sulle carni e sulle commodity, cioè, ci tengo a precisarlo anche perché sennò sembra che stiamo facendo una guerra in realtà su cose che hanno radici antiche. Però io approfondendo ci tengo anche a dire questo: sulla vicenda della carne l'Unione Europea ha più torto che ragione, viste le carte, anche ideologico oltre che commerciale. Nel senso che la vecchia vicenda degli anni 90, quella sull'eccesso di restrizioni all'importazione di carni bovine americane, risolta poi dopo WTO con Obama e un accordo con l'Unione Europea sul fatto che la si restringesse solo a importazioni di carne con trattamenti ormonali, nell'interpretazione dell'Unione Europea diventa una lista di additivi e mangimi che non sono trattamenti ormonali, perché sono molecole che si usano anche nei, sia pur leggermente diverse, negli mangimi europei. E quindi quando poi gli americani iniziano, dopo anni, perché l'accordo è del 2008-2009, gli americani iniziano a dire: no, siete troppo restrittivi evidentemente per colpirci anche su questo aspetto che è totalmente minoritario rispetto al totale dei flussi commerciali. Secondo me hanno più ragione che torto. C'è un pezzo di inadempienza europea, allevatori nordeuropei che su questo c'è un filo di protezionismo europeo sulla nostra industria agroalimentare frammentata. Però non c'entra protetta niente con l'idea di scatenare adesso una guerra di vasto sicuramente, no, sicuramente. Ma poi lasciatemi dire che in maniera furbesca l'Unione Europea voleva risolvere questa disputa delegando tutto alle trattative del TTIP. E poi esattamente, gli stati, ed è per questo che sono stati i primi che hanno affossato, diciamo, che per anni non si è più fatto nulla, che siccome si è affossato il TTIP adesso si dice quindi io... sul protezionismo chi è senza peccato scagli. Bravo, e la prima, ecco, voglio solo dirlo, perché non è che siamo noi europei, siamo proprio i maestri su questo, siamo no? Allineati. Senti Fernando, tornando a Fernando Napolitano, ma come si può fare per mettere al riparo relazioni reciproche dall'eccesso di ideologia da ambe le parti che c'è a favore di Trump e della svolta di Trump in alcuni suoi consiglieri, e come reazione a quello che non piace di Trump in Europa? Perché io temo molto che questo possa essere il rischio. Allora, io credo che ci siano due aspetti. Su quello che diceva Simone è tutto molto vero, però noi ovviamente il mondo sta cambiando. Io credo che noi dobbiamo, da una parte, come aziende italiane, aumentare la penetrazione del mercato americano attraverso un cosiddetto asset base, cioè fare investimenti e stabilimenti. Alcuni operatori già lo stanno facendo, facevate l'esempio dell'FCA, perché così si incrementa la quota di mercato e i flussi. Però in assoluto il business con gli Stati Uniti rimane marginale, cioè ne saranno 45-50 miliardi all'anno. Cioè noi abbiamo una potenzialità inespressa straordinaria, da una parte. Dall'altra parte, con lo stesso Simone, come sai Oscar, noi ogni anno a febbraio teniamo questo convegno a New York che si chiama Italy Meets United States of America, perché noi abbiamo un livello di informazione su quello che si può fare nel nostro paese che rasenta lo zero. Esatto. Noi ad oggi non abbiamo ancora uno strumento di comunicazione in inglese che parli al resto del mondo, quindi noi siamo il riflesso, appunto, come dicevi tu, Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, no? E quindi questa è una prima risposta, cioè informare sull'Italia. Quest'anno ovviamente è venuta l'Emilia Romagna, che ha dimostrato la potenza della Motor Valley, altro che Tesla, e quindi ha fatto capire, per esempio, che l'Emilia Romagna è il primo centro di supercomputing europeo. Quindi cosa si può fare? Da una parte, secondo me, noi con diciamo, i tre asset fondamentali della nostra politica estera americana, che sono Finmeccanica, Eni ed Enel, noi dovremmo avere ovviamente una qualità di presidio e di capitale umano senza precedenti. E dobbiamo alzarla e intensificarla, perché la conoscenza reciproca e le radici reciproche diminuiscono il rischio di ritorno a folli. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Della belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta alle 17 primi e 41 secondi, caro Carlo Alberto. Qua gli scatta l'ormone anche ai nostri ascoltatori, caro Oscar. Sì. Quando parliamo di carne, quando parliamo di queste cose... No, peccato però perché ci voleva Mario a rispondere, perché se rispondevi tu, Mario, di solito ci metti una certa, un certo pepe, invece qui sei fuori studio e quindi bisogna aspettare Carlo Alberto. Però magari ti leggiamo il messaggio e ne facciamo commentare uno anche a Mario. Ci stai, Mario? Sì, sì. Ok, allora, caro Alberto, intanto leggi il primo e rispondi tu, poi ne scegli un secondo e lo facciamo commentare. Caro Giannino, sono felice di non avere nessuna possibilità di trovarmi a pranzo a casa sua, c'è un sorriso, perché lei è totalmente disinteressato a ciò che si ritrova nel piatto, no? Come le informazioni, le decisioni di interesse collettivo, i veleni, produttori di veleni, anche qua, no? Ma l'Unione Europea aveva limitato l'importazione delle carni americane sui limiti degli ormoni, per favore, non dite cose sbagliate. In realtà, Oscar, ricordiamo che è stato il WTO a dire, è stata l'organizzazione mondiale del commercio a dire che gli europei stanno esagerando e non sono stati adempienti all'impegno a importare la carne senza ormoni dagli Stati Uniti, senza ormoni, vogliamo dirlo in maniera chiara. Mario, tu cosa vuoi dire su questo? Sì, sì, no, ma io sono assolutamente d'accordo. Poi alla fine sarà una cosa che colpirà anche il Regno Unito, nel senso, quando il Regno Unito andrà a cercare lo status di partner privilegiato con gli Stati Uniti post Brexit, dovranno assoggettarsi, come dire, all'arrivo degli ormoni, degli OGM, di quant'altro. Ora, a me personalmente non crea alcun problema, ecco, perché noi, come noto, siamo degli alieni che ci nutriamo di sostanze tossico-nocive, però magari tutti questi puristi contrari al TTIP, al CETA e a quant'altro si troveranno che certe cose escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Esatto, che poi così è. Comunque, sentiamo cosa ci dice Sergio da Savona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire la mia quanto riguarda il laccio di Trump. Sì. Niente, secondo me ha ragione a metterlo, perché l'Europa ha sempre puntato sull'esportazione e non sull'importazione, per cui è una forma di autodifesa, cioè... Non so se mi sono spiegato. Secondo lei mettere dazi è difendersi? Questo vorrei solo per capire. No, è provocare, cioè ha fatto una provocazione, non so se mi spieghi. Però secondo lei in cosa consiste questa specie di furberia di esportare troppo? Perché sa, per esempio, noi siamo un paese trasformatore, non abbiamo risorse energetiche, no? Importiamo punti e punti di PIL ogni anno di energia. Io ne farei a meno, ma non li abbiamo, dobbiamo importarlo, ovviamente, no? Sì. Però il fatto che ci sia una matrice sempre più stretta tra paesi di ciò che si scambia, e quella matrice consente a ciascuno però di migliorare le specializzazioni della propria produzione, perché questo è, nella gara, la globalizzazione provoca questo effetto, che ognuno ha delle specializzazioni in cui eccelle e lì poi esporta di più. E perché sarebbe una furberia, secondo lei? Ma sì, perché l'Europa si sta comportando da furbo, cioè l'establishment europeo si sta comportando da furbo, perché punta tutto sull'esportazione. Sull'esportazione. Infatti i cittadini europei sono in crisi. Sono in crisi. Una crisi politica. Lei è sicuro di non ripetere cose che gli ripetono con questa storia che è la furba germana? Perché purtroppo sa, se io le chiedo però perché è una furberia, lei dice è una furberia perché è una furberia. Questo si chiama un'autotologia. Io rispetto chi la pensa come lei, non posso condividerlo. Temo che i cattivi pessimi, nefandi, infami maestri che su questo stanno diventando alla testa di una setta pericolosa di guru per di testa, perché pensano di diventare i super ministri dell'economia ammannendo ai loro settari adepti queste sciocchezze. Pensano loro di avere le supermani in cui decideranno a chi far pagare i depositi infruttiferi. Questo è quello che sognano. Sognano di essere i nuovi signor Dio dell'Italia. Siccome non avverrà e avvizzeranno nella loro irraconda incapacità di vedersi riconoscere i meriti assoluti che vedono solo in quel piccolo coso dove c'è l'acqua nel batter lì quando si specchiano, ecco, siccome non avverrà, uso i termini che usano loro, no, loro ne usano di peggiori dalle lettere che mandano anonime, perché ci hanno anche la coda tra le zampe. Detto questo, io temo che dire è una furberia esportare. No, è una stupidaggine, eh? Il dazio è una stupidaggine, impoverisce soprattutto chi lavora, impoverisce il consumatore, vogliamo ricordarlo, ed è, come dire, l'apertura invece, come direva Bastiat, no? Dove non passano le merci, passano gli eserciti, e l'apertura a conflitti. Vogliamo dire che non c'è niente di furbo e non è tutela degli interessi nazionali mettere le dazi sulle merci, al contrario, si tutelano gli interessi nazionali aprendo e favorendo le esportazioni insieme alle importazioni. Però, l'Italia è salita al 57% caro Alberto, dell'impatto. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che nella storia di far diminuire il commercio mondiale, cioè l'interscambio, è da sempre l'interesse dei regimi autarchici e di chi non democraticamente vuole guidarli e vuole fare il super ministro dell'economia, perché solo a condizione di avere mercati chiusi, certo, diventi il nuovo faraone, hai potere, no? Non poi diventi hai il professore universitario pieno di verde bile, no? Diventi quello che sta per fa come Salazar, il tecnico che poi diventa il dittatore del Portogallo per 20 anni. Questo è il punto. Allora, chi glielo ripete alla gente, e la gente poi alla fine gli crede, purtroppo ha questo per la testa, perché altrimenti, scusate, in un mondo che scambia, scusate, la globalizzazione negli ultimi 20 anni ha fatto diminuire in numero assoluto coloro che vivono sotto la soglia della povertà come non era mai avvenuto nella storia dell'umanità. 1, 2. Sul totale dell'indice di Gini, usiamo questo indice che a me non piace tanto per la distribuzione dei redditi, a livello planetario, essa è scesa perché soprattutto appunto nei paesi meno ricchi prima ha iniziato a diffondersi un ceto medio, quindi è diminuita l'iniquità, se volete, ma comunque il coefficiente di distribuzione dei redditi è sceso. Nei paesi ovviamente più ricchi, quelli che erano già emersi, la globalizzazione comporta l'effetto, questo è vero, di perdita di imprese occupate nei settori che non sono quelli delle proprie migliori specializzazioni. Questo è il punto da affrontare, è un punto vero, che però non deve mettere in discussione la quantitatività e la qualità degli effetti positivi della globalizzazione. Non è che non può, ognuno può mettere in discussione, però dal punto di vista numerico e qualitativo non li mette in discussione, non li sovverte. Allora concentriamoci su questo invece che nella speranza di tornare a regimi autarchici dittatoriali con superministri dell'economia a vita, ecco, perché secondo me il mondo ci perde se andiamo verso quello. Allora occupiamoci anche di questo nuovo processo che adesso per anni sarà quello con cui l'Unione Europea deve avere a che fare, perché oltre alla novità del tono dato dall'agenda commerciale mondiale dagli Stati Uniti, sia pure, come abbiamo spiegato, insistendo su problemi preesistenti, perché la storia della Vespa è totalmente preesistente, però la novità formale è l'articolo 50 notificato del trattato dal governo May alla Commissione Europea. Questa settimana abbiamo chiamato per parlarne un nostro ospite sistematico, sia per parlare delle vicende finanziarie, sia però per parlare anche delle vicende europee, cioè il capo della strategia macro di Algebris, Alberto Gallo. Grazie di essere con noi. Prego, buongiorno. Però nel vostro report siete sui numeri, io quando ho letto ho fatto un certo saltino, perché al quarto periodo comincia dicendo Brexit costerà 140 miliardi di sterline. Brexit è stata venduta come un progetto quasi positivo per il Regno Unito, e questo è un errore, perché c'è un costo molto chiaro a tutti. Se tu sei un'isola che importa la metà del cibo e di tutti gli altri beni fisici, alla fine se ti isoli ancora di più dal resto, dal tuo partner commerciale più grande che l'Europa, avrai un'inflazione molto alta. Infatti, se vai al supermercato qui oggi in Inghilterra, non c'è più frutta, tutto quanto sta diventando molto più piccolo perché il costo di importazione è più alto. Poi ci sono altri costi collaterali. La Gran Bretagna si è fondata sulla finanza negli ultimi 20 anni. Per avere un'industria finanziaria bisogna importare, bisogna permettere a persone di tutti i paesi del mondo di lavorare qui. Se si chiudono i confini, la finanza, che è il 10-15% del PIL, alla fine ne soffre. Quindi in tutto noi stimiamo che il PIL potrebbe perdere 7,5%, quindi 140 miliardi di sterline. Questo solo per i costi diretti, perdita di posti di lavoro e inflazione. Il problema è che il governo continua a vendere questa uscita dall'Unione Europea come una cosa, come un divorzio indolore facile. Voi dite, quindi sarebbe l'equivalente di 300 milioni di sterline ogni settimana, per tutte le settimane, per la durata di 8 anni. Naturalmente la controobiezione è di chi invece ideologicamente dice no, voi dite così perché siete ideologicamente avversi, siete pagati dai tedeschi, perché questa diventa ormai anche algebra, si è pagata dai tedeschi nel fare questi esercizi quantitativi, e invece la loro controobiezione, che naturalmente loro spacciano come non ideologica, è quella: ma cosa dite? Dicevate che sarebbe crollato il pound e invece è sceso solo del 15-16%. Vedi se è poco però per loro è pochissimo, naturalmente, se sai a chi mi sto riferendo, caro Carlo Alberto. E poi dicono, e poi il crollo non c'è ancora stato nell'economia britannica, anzi mai così bene. Cosa si risponde a queste obiezioni? Allora, questi sono i dati economici. Il pound è sceso da 1,50 a 1,25. L'inflazione attesa a 10 anni è al 3,6%, mentre invece i rendimenti sulle obbligazioni, sugli investimenti, sono intorno all'1-1,5, quindi la gente che investe ha un rendimento negativo. Il PIL sta un po' perdendo colpi, è ancora positivo perché i consumatori hanno speso molto, ma hanno speso molto prendendo prestito. Siamo a livelli record di debito per persona, come nel 2006, e i prezzi delle case piano piano stanno scendendo. Nell'ultimo mese sono scesi dello 0,3%. Quindi vediamo un pochino che l'economia perde colpi, però attenzione, il processo di Brexit non è neanche iniziato, quindi qui esatto. Si tratta soltanto delle aspettative. Adesso la spiegazione nostra, la nostra opinione è che in realtà Brexit è un sintomo di un paese che è stato molto molto diviso negli ultimi 20 anni, che si è sviluppato intorno a una sola città, intorno a una sola industria, cioè la finanza, e dove per attirare la crescita sono state implementate delle misure di tagli fiscali anche vicini a quelli di altri di paradisi fiscali come altri paesi piccoli come Singapore, eccetera eccetera. Quindi il paese ha una disuguaglianza enorme, sia il Regno Unito come anche l'America. La disuguaglianza poi porta al populismo. Il populismo ha tre caratteristiche principali: vende un sogno irrealizzabile, crea un nemico, in questo caso l'Unione Europea e l'immigrazione, e poi risulta in politiche economiche che vanno a danneggiare le stesse persone da cui ha preso il populismo, che doveva proteggere. Quindi e sono queste le tre caratteristiche che vediamo qui. Oimè, torniamo tra un minuto. Conti della Belva. Che mitica versione questa, che mitica versione. E pensate, cari ascoltatori, il paradosso nel paradosso. Questo geniale, strepitoso interprete, questo chitarrista di primo livello mondiale, S- Sapete come si chiamava e come si chiama di cognome? May si chiama, come Teresa May. Come Teresa May si chiama. Vabbè, detto questo, questa è la versione che io prediligo naturalmente di Dio salvi la regina, però questa volta vi ho risparmiato di cantare come sempre faccio l'inno, perché Oscar, io sono repubblicano, fammelo dire, no, capito, c'è, c'è poco da salvare, però, per no, i Windsor. Invece scusa, ci sono da salvare i conti. Alberto, devo farti un paio di domande un po' più tecniche qua. Qui l'istituto Bruegel ci ricorda che ci sono qualcosa tipo 724 miliardi di euro di commitment and liabilities, tradotto in italiano, di impegni scritti, impegni scritti e di debiti da pagare per tutta Europa, e di cui la UK ha una quota a parte che deve onorare. E ripeto, questo ragionamento di Bruegel non ha a che vedere con effetti economici, no, meno crescita. Stiamo parlando degli impegni relativi ai programmi fino al 2025 di corresponsabilità nel finanziamento della spesa, certo, europea. Spesa europea. Di cosa succede per esempio poi continuerete a finanziare la quota parte delle pensioni dei dipendenti, esatto, e così via. Stiamo parlando di cose che possono sembrare organizzative, sono in ballo decine di miliardi, anche perché fino al 2019 mi dispiace ma l'UK sarà comunque membro della UE e, non è di, e quindi deve continuare a contribuire. Alberto, si discute in Inghilterra di queste liabilities, di questi impegni legali che non possono essere negletti, e stiamo parlando di decine, se non addirittura di centinaia di miliardi. Sì, il conto è di circa 60 miliardi di euro. Questi sono, diciamo, sono impegni finanziari che la Gran Bretagna ha deciso negli ultimi anni, quindi la Gran Bretagna dava dei soldi all'Unione Europea, allo stesso tempo riceveva aiuti dall'Unione Europea, in particolare per le regioni più povere, ed è un punto molto cruciale perché il governo di Theresa May ha detto che in realtà la Brexit sarà quasi gratis, e in realtà invece bisogna è molto difficile tirarsi fuori da questo conto. Allora, questo sarà il primo punto che verrà negoziato probabilmente. L'Unione Europea ha un approccio molto duro e giustamente con la Gran Bretagna perché vuole evitare che altri paesi vadano via senza pagare il conto. Poi ci sono altri, diciamo, altri aspetti della Brexit che verranno negoziati, in particolare se il Regno Unito rimarrà nel, in qualche modo vicino al mercato dei beni, al single market e l'immigrazione. Però questo rimane il primo punto che verrà negoziato. Qui e c'è secondo me sarà difficile uscire gratis. Voi nella vostra ultima analisi analizzate giustamente il punto, alla luce della teoria dei giochi, di come si negozia il divorzio. E su questo sono passate 48 ore per capire che l'impostazione è radicalmente diversa sulle due rive del canale. Nel senso che il Consiglio europeo, quindi il TASC, ma devo dire, interpretando bene da quello che ho capito, l'impostazione dei maggiori paesi europei, Germania, Francia, Italia, però molto uniti, e la Commissione, con Juncker che addirittura secondo me usa parole persino troppo muscolari, ma chiedono al Regno Unito, no, prima noi ci mettiamo d'accordo sulla divisione, poi ci mettiamo d'accordo su come funziona il nuovo rapporto. La lettera, secondo me, è troppo lunga, sorprendentemente troppo lunga. Come sì, Financial Times ha fatto le pulci, è una lettera quasi barocca della May, bastava un secco faceva stiamo uscendo. Capire agli elettori britannici, perché era tutta scritta per gli elettori britannici, il contrario, cioè ma no, semplicemente d'accordo e così via. Questa cosa però ovviamente fa molto ballare la stima dell'impatto economico, perché a seconda di qual è la strada della procedura, quanto tasso di cooperazione c'è nel fare prima le divisioni, la spartizione e poi nel definire per persone, beni, servizi e capitali i coefficienti di libertà del nuovo rapporto, e a seconda del tasso di cooperazione di questo cambia l'impatto sull'economia. Voi che dite? Il punto importante è se si riuscirà ad avere un accordo di transizione. Perché è molto probabile che in due anni il Regno Unito non riuscirà a rinegoziare tutti i trattati, esatto, con tutti i paesi con cui l'Unione Europea ha già dei trattati commerciali. Pensiamo che la metà dei beni esportati e servizi esportati dal Regno Unito va in Europa. Poi c'è un altro 15% di beni esportati in altri paesi non europei che però viene esportato in base diciamo, ai trattati commerciali negoziati dall'Europa. Quindi se non hai un accordo di transizione passano due anni e hai un effetto cascata dove praticamente cadi nel vuoto perché non hai i trattati commerciali, quindi devi non riesce a rinegoziarli tutti. Ricordiamoci che il team Brexit è di circa 100 persone che dovrebbero negoziare trattati commerciali in 2 anni con più di 100 paesi, quindi è molto molto difficile. Ci sono state voci su importanti quotidiani britannici questa settimana che hanno iniziato a dire la realtà è che non abbiamo le risorse nella pubblica amministrazione, nella parte apicale della pubblica amministrazione di UK, tali da poter maneggiare con sufficiente certezza un impatto così impegnativo. Esatto. E ci sono poche persone e secondo noi il governo di Theresa May ha fatto almeno 3 errori. Il primo è che per tenere l'opinione pubblica qui nel Regno Unito contenta hanno iniziato a fare delle minacce all'Europa dicendo a noi possiamo andare via dalle negoziazioni, oppure diciamo facendo capire che l'Europa ha più bisogno del Regno Unito che viceversa, e tutte queste, diciamo, queste minacce sono poco credibili date le condizioni economiche. Il secondo errore è che hanno promesso che la Brexit sia indolore, alla fine non lo è, quindi a un certo punto l'opinione pubblica si renderà conto di questo. E il terzo è che stanno cercando di raggiungere degli obiettivi che sono incompatibili, per esempio rimanere in qualche modo nel mercato dei beni europei, però allo stesso tempo raggiungere un controllo dell'immigrazione molto forte, e queste sono cose che sono incompatibili per l'Europa. È la prima cosa che Brussels ha detto: non potete scegliere alla carta, non potete fare cherry picking. La finanza invece, esatto, visto che c'è un problema. Senza legge condivisa, senza normative condivise, sono l'asset fondamentale, sono come dire la strato di istituzione giuridica. Come si fa, quindi senza passport, come si fa a mantenere tutta questa finanza a Londra e negli UK? Cioè, gran parte del pezzo dovrà migrare. Certo che non è che Londra viene spopolata. Gran parte. Però. Chiedo ad Alberto, perché è ovvio che a questo punto le decisioni vanno prese da parte di chi deve decidere dove tenere i data center, la sede legale dei dati. Ci sono temi anche Lloyds tecnologici. Lloyds l'ha già detto che apre un hub europeo, si è letto questa settimana che importanti, JP Morgan sta cercando una nuova sede a Dublino per l'equivalente di 1000 risorse umane. Però al di là di questo, come se ne esce? Come la vedete questa cosa? Per Londra resta il più importante polo finanziario comunque dell'Europa, sia pur non più nell'Unione Europea, oppure no, secondo voi, d'Algebris? Dell'Europa probabilmente per ora sì, ma ci sarà comunque una dispersione, perché ci sono 2 punti. Uno è il clearing degli strumenti in euro, quindi il trading degli strumenti obbligazionari in euro, che ora viene fatto a Londra, anche se in realtà in tutti gli altri paesi del mondo viene fatto nel paese della stessa valuta. Questa è stata una delle eccezioni date al Regno Unito negli ultimi anni per farli rimanere contenti, insieme a eccezioni su Schengen, eccetera, eccetera. Quindi questa eccezione c'è chi sostiene che convenga anche all'Europa in realtà confermarla a Londra. Voi pensate di sì? Ma nel medio termine no, perché essere un'unione forte vuol dire anche avere pieno controllo dei propri mercati finanziari. Esatto, cioè, ricordiamoci che l'America e anche un po' il Regno Unito usano i mercati finanziari come un'arma economica, quindi l'Europa che dipende dal trading degli strumenti in euro basato in un altro paese sarebbe vulnerabile. Ma secondo me è tecnicamente impossibile, non puoi tenere un dato sotto giurisdizione completamente diversa, corretto. È veramente ingestibile. Insomma. Cioè, un conto è dare deleghe o su alcune singole processi. Il venir meno, che non sarà domani, ma diciamo entro i prossimi 2 o 3 anni, del poter fare il clearing in euro a Londra, che impatto ha attualmente sull'industria finanziaria britannica? Ecco, il punto in realtà per il clearing, per il trading è piccolo, ma il problema è che questo poi diventa un esempio per altri tipi di funzioni, per cui ci può essere uno scenario in cui il 20-30% dei lavori legati alla finanza vanno via. 20-30. Poi c'è l'indotto. Poi c'è l'indotto, perché per ogni banca che c'è qui ci sono persone che mangiano, che dormono, che prendono un taxi, quindi c'è un indotto che arriva a oltre il 10% del PIL, 10-15%, se si riduce del 20-30% già hai un impatto che più o meno torna a quei numeri che discutevamo prima, più tutto l'indotto, diciamo, sul paese. Il problema è che l'Europa non ha ancora un polo alternativo, quindi si andrà poi un po' a disperdere negli altri paesi europei. Comunque, come vedete, cari ascoltatori, noi intanto ringraziamo come sempre Alberto Gallo, capo della strategia macro di Algebris, per i numeri che ci ha fatto condividere. Anche questa è una strada che abbiamo imboccato per le conseguenze inintenzionali della storia, visto che chi ha convocato quel referendum non credeva che avesse quell'esito in Regno Unito. Ricordatevi che David Cameron non pensava affatto che sarebbe finita così. Ma la storia è ricca di questo, la storia è fatta di processi inintenzionali che pensino i grandi uomini che credono di poterla governare. Ma una cosa è sicura: più coefficiente di muscolarismo metteremo anche su questo secondo tavolo, più rischiamo forte. Io lo so che è l'istinto di molti amici dire no, l'Unione Europea adesso la deve fargliela vedere a questi signori. Io con Fabio Scacciavillani, per esempio, ogni tanto discutiamo su questo, perché quello sarebbe veramente assurdo. Scacciavillani dice, dal suo punto di vista, Oscar, non ti dimenticare, questi sono quelli, i sabotatori, li chiama i sabotatori professionali del progresso europeo. Io ho sempre capito invece che dal punto di vista della storia del Regno Unito i grandi leader, pur che hanno parlato d'Europa come Churchill e così via, hanno sempre avuto in mente una forte specificità. Io ho sempre segnato i leader europei capaci di conciliare le nature, le storie, non di obbligare a one model fits all. Allora, più metteremo muscolarità, peggio sarà per tutti. Questo vale per la sintesi sia di quello che abbiamo parlato sul tavolo del commerciale mondiale a proposito di Trump, ma anche sull'evoluzione che sarà l'ABC, oimè, delle cronache europee per i prossimi anni, di questa cosa sventurata che, sia pur per motivi che capisco, arrivo a capire che se non li condivido, l'elettorato britannico ha scelto. Conti della Belva. Tutti i leader che sono qui naturalmente sono molto contenti che ci sia ancora in Italia la possibilità di una mia presenza in campo per garantire che l'Italia non si sposti su dei partiti populisti che sono molto temuti. Ecco una delle altre cose che ci ha regalato questa settimana. Silvione, torna fra noi, Il vertice del Partito Popolare. E alla Merkel, e la Merkel gli dà il timbro, torna tra noi. Io dicevo da milanista, cosa hai pensato? Cioè, lo dicevo da milanista. Merkel, 20 minuti, non ho mai detto quello che mi accusano di aver detto. È stata una manovra, sono i miei nemici. Tutti non possono che vedere l'argine contro il populismo, contro i professori universitari che sono impazziti. Vabbè, su quello possiamo discutere. L'argine. E la Merkel che cosa dice a questa nuova diga di Aswan? È la diga del Vajont? La diga di Aswan? Questa è la domanda. No, ma al di là del... Io poi ho anche, devo dire, un riconoscimento assoluto per la capacità di Ercolino sempre in piedi, Berlusconi, perché guardate, avrebbe abbattuto un battaglione di incursori della Marina, la metà di quello che lui nella vita, col sorriso sulle labbra, è capace di affrontare. Cucito proprio, ecco, sulle labbra. Vabbè, è cucito adesso. Udo Gumpel, giornalista, corrispondente dell'Italia per la televisione tedesca NTV, speriamo di averti dire perché so che sei sul treno, ma che hai pensato a questo fantastico incontro maltese? Diccelo, Udo. Ma lui si è rimangiato la colonna... oddio, quasi lo stavo per dire, e ad allora ha detto che non è mai esistita questa offesa, anche se ne ha naturalmente parlato mezza Germania per parecchio tempo. È chiaro che, come conosciamo Angela Merkel, lei mantiene il suo aplomb diplomatico completamente perfetto, però a porte chiuse se la legge è partito naturalmente. Allora, sì, certo che si sono incontrati. E certo che Berlusconi vive male la nuova stagione del populismo, perché come esiste la regola, c'è sempre qualcuno più a nord di te o più a sud a seconda della posizione, esiste anche sempre qualcuno che è più populista di te, e devo dire che Berlusconi è stato battuto adesso 3-1 da Grillo, no? È molto più populista, molto più spacciato, perché non gliene frega niente di appartenere a qualche famiglia politica europea, invece Berlusconi ci tiene, questo è il fatto. E ora Berlusconi, è vero, ha ragione, con il suo 13-14%, non più 43 di una volta, e comunque è rimasta una figura centrale della politica italiana, perché abbiamo una perfetta divisione a terzi, no? PD in leggera o forse discesa, e comunque intorno a 30, grido 30, e lui col suo polo, eventualmente con o senza Lega, intorno a 30. Dunque senza Berlusconi non ci sarà più maggioranza in Italia, lo sa la Merkel, che è una realista, ama la realpolitik, e dunque se Berlusconi nega, nega l'evidenza e magari vuole ritornare nella grande popolare, va bene. È un bagno di realismo. Però io ti chiedo a questo punto l'altro aspetto che a me questa settimana ha molto colpito. Quando io ho visto in lacrime la leader di Alternative for Deutschland a un congresso del suo partito, ho detto ma niente, sta succedendo qualche cosa nel cuore del populismo nazionalista tedesco, che è un segnale che non riguarda solo la Germania ma riguarda l'Europa, perché questo io non so darmi la risposta, solo leggendo e ascoltando gli amici tedeschi che ho non sono riuscito a convincermi, perché credo, la mia opinione, magari Udo adesso ci dice che è sbagliata, è che sia un fattore più che altro tedesco, cioè più si avvicina le elezioni, ancora mancano mesi per la cancelleria, più i grandi partiti in Germania, che non sono affatto finiti, tornano a riprendere elettorato. Quindi molti amici mi hanno detto guarda che non è una cosa da leggere in chiave francese pro Macron, cioè non è vero che questo significhi la crisi e la risposta tedesca alla domanda entrano in crisi i populismi in Europa, però non lo so, il tema è questo, perché quelle lacrime della leader di Alternative for Deutschland, Udo Gumpel? Ma perché lei, la Frauke Petri, è una persona che è molto poco amata all'interno del suo partito e vive naturalmente una crisi del suo partito che è in forte discesa, la danno al 15% e forse anche di più alle elezioni nazionali in settembre in Germania, adesso alla fine deve lottare per non restare sotto la soglia del 5%, perché è un partito che ha aveva due tematiche: una era anti-italiana, cacciamo il sud parassita dall'euro, questo poi non funziona più perché molte crisi sono state risolte, la Grecia è scesa molto più a miti consigli, Alex Tsipras al vertice di Roma è stato applauditissimo col suo realismo, resta un po' la questione Polonia e resta naturalmente il grande malato che è l'Italia, però comunque non è più tema in Germania, mentre la crisi dei profughi, dove la Merkel effettivamente ha commesso degli errori anche piuttosto grandi, e non è neanche più questo tema perché non ci arrivano più i profughi. Dunque la AfD è un partito monotematico senza tema, e in tema di elezioni i tedeschi cominciano a seguire un po' il moto andreottiano, no? In cabina elettorale magari si curano il naso ma votano per chi è in grado di gestire la Germania. Dunque considerate che con gli attuali sondaggi, che credo che siano abbastanza affidabili, il 70% dei tedeschi voterebbero o la Merkel o Schulz. Dunque sì, non ci sono spazi per estremismi, perché i tedeschi alla fine capiscono che anche la Germania deve riunirsi, stare dietro ad un leader bravo, europeista, perché abbiamo altre minacce che la Frauke Petri o Grillo, però siete davvero conservatori. Abbiamo Trump, abbiamo Trump. Siete però no? Dei veri conservatori, Udo. Come si fa a essere nel 2017 ancora attaccati per il 70% due partiti tradizionalissimi? Quindi noi in Italia, ma sai, innoviamo ogni tre mesi. Ma guardate che non è chiaro che fate ironia quando fate le domande. No, ma così. Chiedo perché comunque è un segnale importantissimo. La Germania torna ai due grandi blocchi storici. A me sembra una roba da commentare. A me non mi piace questo fatto, perché purtroppo oltre a questi due grandi partiti ci sono una miriade di piccoli che non permettono, anche nel sistema elettorale tedesco che è molto proporzionale con una venatura maggioritaria nei collegi uninominali, però comunque viene corretta poi per le liste proporzionali, non consentirà probabilmente questo risultato una coalizione diversa dalla grossa coalizione, e questo fa crescere naturalmente immediatamente dopo i populismi, quando i due partiti maggiori hanno due terzi, più dei due terzi dei seggi, cioè in pratica potrebbero fare quello che gli pare, e non c'è una vera opposizione. opposizione, e quando non c'è la vera opposizione in Parlamento crescono i populismi antiparlamentari, antisistema. Dunque non è assolutamente positivo questo fatto. Sono molto d'accordo con quello che ci ha detto Udo Gompa. Io ricordo ai nostri ascoltatori che nel frattempo, dopo che per qualche mese era sembrata la campagna delle campagne, come vedete i partiti invece sono reimmersi a parlare di tutt'altra cosa. Nel PD ovviamente il problema è tornato, no, Renzi tanto la vince, le ha vinto il congresso, vediamo poi naturalmente col voto anche da fuori, ma allora vincerà, io ho pochi dubbi, ed è tornato a questo punto a premere sul governo per dire voi non dovete fare quello, non dovete fare quello, non dovete toccare l'IVA, non si tocca niente, magari si vota prima anche della prossima legge finanziaria, eccetera eccetera. Però della legge elettorale, cioè di quest'ultimo particolare che toccava Udo Gumpol, perché le leggi elettorali hanno un effetto sul sistema politico, non mi dicono più niente. La gara è a lasciare tutto così com'è, proporzionale pure, non gliene frega più niente a nessuno nei partiti italiani di farsi dare un mandato chiaro a governare su un programma preciso, perché il programma preciso non ve lo vogliono dire, vogliono semplicemente tornare a urlare ciascuno contro l'altro, dicendo che la colpa è di qualcun altro, dell'Europa, dei tedeschi, di Grillo se non si è di Grillo e così via. Noi abbiamo non una Alternative for Deutschland, il problema è che ce l'abbiamo a destra, a sinistra e al centro. Questo sì, è il sistema politico italiano oggi, cari miei. Dite che siamo servi dei tedeschi, non me ne fotte niente. Io la realtà che vedo, che invece piace alla maggioranza di voi, è una realtà che a me non piace. Alternative for Deutschland sta diminuendo i voti. Da noi la gara in tutti gli schieramenti è a fare gli Alternative for Italian, per così dire. Governare mai, vabbè, grazie Udo Gumpa, torniamo tra poco noi. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati qui con la banda dei conti della Belva in studio. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Collegato Mario. Eccoci Mario, ci sei? No, non c'è Mario. Mario non c'è più. Ragazzi, caduta la linea, richiamatemi Mario. E nel frattempo però c'è Renato Cifarelli. Renato? Buongiorno, io ci sono. Allora, posso farti la prima domanda iniziale? Abbastanza preoccupato. Posso dire una cosa prima io? Sì, ho scoperto di essere molto furbo. Cioè? Ed è appunto tutto sulle esportazioni, faccio il 90% di esportazioni. Lo so, ma vedi, però guarda che gli ascoltatori, se vedi anche i messaggi, quanta gente ce non ce so ne se, dice. Non lo so se i miei collaboratori sono d'accordo sul fatto che sia una furbata quella di puntare sulle esportazioni, visto che è quello che gli garantisce il lavoro. Comunque, il lavoro. Ognuno. Su di te che sulla vostra azienda che impatto ha l'eventuale incattivimento del rapporto con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna? Beh, noi abbiamo un progetto Stati Uniti adesso, dopo l'operazione straordinaria che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi poi bisogna vedere se nel nostro settore fanno, cioè mettono i dazi. Nel caso mettano i dazi, proteggerebbero principalmente industrie tedesche che producono negli Stati Uniti i prodotti che noi facciamo, e a quel punto lì poi vabbè, si va di piani industriali, quindi o trasferisci la produzione là oppure trovi qualche modo per impattare il mercato. È perché esattamente questo poi è il punto vero, e dire alle aziende internazionalizzate ragazzi dovete venire qua, non è che non li vogliamo i vostri prodotti, è esattamente questo il fine. Sì, ma cioè è tutto, allora il mercato degli Stati Uniti è un mercato che è difficilissimo, e Carlo Alberto che ne sa anche molto più di me e lo conosce bene lo può confermare, non è un mercato che uno affronta in modo semplice, diretto, o un mercato per le piccole aziende. Anche perché poi richiede servizio, presenza e tecnologia integrata, e quindi non basta esportare, bisogna garantire servizio. Noi, tanto per intenderci, non siamo mai riusciti a entrare nel mercato americano e ci stiamo entrando adesso perché non abbiamo mai avuto la forza, la piccola azienda, di fare la filiale negli Stati Uniti, perché lì o fai la filiale oppure non riesce a dare il servizio che si aspetta quel mercato. Certo. Che poi è quello che diceva Ferrando Napolitano, una strategia asset-based, bisogna investire e non solo esportare. Investire vuol dire tecnologie e persone, non soltanto fabbriche, ma vuol dire allora, anche... l'unica cosa che mi viene in mente, una una cosa che dicevo in questi, cioè, dicevo tra me e me in questi giorni, è che non vorrei che il Presidente degli Stati Uniti facesse questo ragionamento, perché molte delle esportazioni degli Stati Uniti, o perlomeno molto del business degli Stati Uniti, negli ultimi anni è diventato quello digitale, dove diventa praticamente impossibile mettere le frontiere. Quindi è difficile dire metto un dazio a Google o Facebook, tanto per intendere, e parlare sempre dei soliti, anche se poi secondo me Renato è proprio concepita come una doppia tenaglia. Questa parte di preoccupazione si affronta da parte di questa amministrazione, questo è il suo impegno in campagna elettorale, con la leva fiscale, dicendo: noi per fare il rimpatrio delle decine di delle centinaia e centinaia di miliardi di dollari di utili realizzati all'estero dagli over the top, quelli che citi tu e che restano fuori, noi agiamo con la leva fiscale, l'abbattimento dell'equivalente dell'IRES di 20 punti e una, diciamo, imposta di regolarizzazione al reingresso. Dall'altra parte, però, nel fare questo, diciamo, romperemo anche le scatole ai cinesi che fanno le cose anche meglio di voi, perché non è che Huawei sia peggio della no, beh, ma poi tutta la produzione Apple credo che producano più o meno una vite negli Stati Uniti. Esattamente. Quindi, forse meno, insomma. Bisogna vedere. Tutta la parte software di Apple, quindi tutta la parte app e company, è sviluppata, diciamo, based Stati Uniti. Ma tutta la produzione producono uno spillo negli Stati Uniti. Ma intanto lo Stato si è inventato qualcosa questa settimana per darti una mano? No, guarda, lo Stato. Purtroppo poi dobbiamo tornare sempre all'Italia, alla nostra Italietta, e leggevo che adesso hanno rinviato il bilancio di province e aree metropolitane allargate, quella nuova cosa che si sono inventate, perché avevano basato tutto sul fatto che vincevano il referendum, quindi le province venivano abolite. Le province non sono state abolite, quindi adesso sono lì in una specie di limbo, per cui hanno passato un po' di personale ad altre amministrazioni perché c'era la legge che le aboliva. Non hanno i soldi, basta fare un giro nelle strade di provincia, qui a Pavia ne sappiamo qualcosa, per capire cosa ha significato dal punto di vista logistico tutta questa cosa qua, perché le strade ormai sono un buco unico, le province hanno in carico le strade, non hanno più in carico i soldi, in qualche caso non hanno più in carico neanche il personale, insomma pare che manchino 400-500 milioni che, come al solito, c'è già una mezza idea di chi li tirerà fuori, purtroppo. Ma guarda. Perché poi, come per la Brexit, la gente si dimentica sempre che ad una azione corrisponde qualcosa che succede dopo, no? E quindi ogni volta che noi prendiamo una decisione succederanno delle cose dietro la decisione. Uno può volerlo o non volerlo, ma sempre succede qualcosa quando si prende delle decisioni. E quindi adesso le province ce le ritroviamo, saranno da finanziare e quindi da qualche parte i soldi li prenderanno, insomma. Però per il momento non ci sono. Questo riguarda anche le aree metropolitane che dovevano decollare come, appunto, strumenti amministrativi concepiti per essere coerenti a questa realtà in cui la grande crescita del mondo non si fa in realtà attraverso piattaforme nazionali e sistemi nazionali, si fa attraverso le specializzazioni incardinate in economia regionale e grandi aree metropolitane che attirano dal mondo, certo, e si proiettano. Logistica condivisa, tecnologie condivise. Non a caso, scusate, quando noi parliamo di, per esempio, di tutto il discorso della new economy, non è che parliamo degli Stati Uniti, no, parliamo esattamente. Palo Alto e zone. Solo che noi naturalmente siamo arrivati con 20 anni di ritardo. Silicon Valley. Di Silicon Valley, non parliamo neanche di California, tanto per intenderci. Ma noi non riusciremo mai a far fare le città metropolitane davvero. A parte il fatto che abbiamo scelte 11, quindi è un numero che la dice tutta il campanilismo italiano. Abbiamo 11 aree metropolitane mondiali. No, come ovvio. Però, ma comunque non ci sono i soldi. Questo è il punto della riflessione tua. Ed è un punto, ohimè, amaramente centrato. Ma nel frattempo, come sapete, conta di più se Emiliano o Orlando o Renzi o Gentiloni, oppure Padoa, che adesso è diventato il nemico di Renzi perché è un tecnico. C'è scritto oggi sui giornali: deve imparare testualmente. Padoa deve imparare a non fare il poliziotto buono a Bruxelles. Cioè il tono con cui l'uomo che ha garantito a Renzi la credibilità e la copertura a Washington, a Francoforte, a Bruxelles, eccetera, le deve leggere sui giornali tra virgolettati che questo è il modo in cui gli dicono di... Io francamente direi mi sono scocciato e me ne vado, vedetevela voi cari ragazzi, però questa è la politica italiana. No, Oscar, rimani con noi che ci fai divertire, dai. Politica italiana, la politica italiana. Allora, grazie anche a Renato Cifarelli, ci sei la prossima settimana, Renato? Sì? Sì, ci sono. Grazie, sono come sempre. Giorni prima... A Carlo Alberto, Mario non siamo riusciti, Mario più, non siamo riusciti, non siamo riusciti a recuperare il contatto, che mai io anche a nome suo vi saluto e controllo sulla 24, appuntamento alle 8:20 di mattina con me e Alessandro Minatti, Antenne 2.